America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. To the millions of Americans who look around and can only see jobs they can't get, I have a message. You have not failed. You have a president that's failed you, and that's going to change. Mitt Romney di nuovo in campagna elettorale, ha vinto di fatto il Super Tuesday, ma sente sulle spalle il fiato di Santorum, che è riuscito ad aggiudicarsi tre stati. La corsa per la candidatura repubblicana alla Casa Bianca continua, si fa in qualche modo più avvincente. Mitt Romney è riuscito a vincere anche l'Alaska, quindi il totale degli stati che ha vinto al Super Tuesday è addirittura 6, ma vi dicevo, sente il fiato sul collo di Santorum, il quale molto probabilmente farà bene in Kansas, anche Gingrich forse farà bene in Kansas. Questo per dire che davanti a Mitt Romney c'è un periodo non facilissimo. Il Kansas sabato, l'Alabama e il Mississippi martedì, sono stati del sud, sono stati molto religiosi, non vedono di buon occhio Romney mormone, diciamolo, insomma c'è una discriminante religiosa in tutto questo, e dunque probabilmente Santorum farà meglio di lui. Dopodiché si va avanti, perché a quel punto Romney farà probabilmente molto meglio in Illinois. La mia convinzione è che alla fine Romney riuscirà a farcela, la corsa durerà molto più a lungo di quello che forse Romney sperava, e questo darà spazio a Barack Obama per prepararsi meglio al confronto di novembre. Vorrei anche ricordare che in fondo è abbastanza normale che quando c'è una corsa di questo genere le primarie vadano avanti. Le primarie sono state costruite proprio per quello, non per avere un candidato che vinca immediatamente lui e basta. Pensate, quando ci fu lo scontro Reagan-Bush, quindi stiamo parlando del 1980, non si seppe fino a, addirittura a maggio, chi era il vincitore. I think that's a very difficult moment. The problem is the worst I had seen in my life. It's a financial pandemia that is affecting all the world. I am very worried about the economic consequences, the real economy. Chi è questo signore? Lo avete riconosciuto? Forse avrete capito che ha un piccolo accento spagnolo mentre parla inglese. Sta parlando del passaggio dalla crisi finanziaria alla crisi economica, che è una cosa che preoccupa, noi lo sappiamo benissimo. Il signore che vi ho fatto ascoltare e Carlos Slim, e una cosa o due in materia di economia e di finanza le sa, perché è in testa alla classifica degli uomini più ricchi del mondo, la classifica di Forbes, celeberrima 25esima edizione. Carlos Slim, magnate delle comunicazioni messicane, dico comunicazioni per dire poi naturalmente mille altre cose, perché attività anche finanziarie, bene, il suo patrimonio, pensate, e di 69 miliardi di dollari, è più ricco di Bill Gates, è più ricco di Warren Buffett. Bill Gates al secondo posto con 61 miliardi di dollari, Warren Buffett con 44 miliardi di dollari e al terzo posto. Seguono poi una serie di altri miliardari: Bernard Arnault, Amancio Ortega, Larry Ellison di Oracle, il miliardario brasiliano Elke Batista, Stephen Peters, Li Ka-shing. Quel che mi colpisce è che ci sono dei giovani che sono entrati in questa classifica, dei giovani che 5 anni fa non esistevano e che oggi sono fra le persone più ricche del mondo. Conferma questo quanto la mobilità americana resti una priorità in questo paese. L'apertura, la possibilità del ricambio, la possibilità di crescere, ecco, sono direi elementi di fondo che dovrebbero darci molti insegnamenti. E veniamo a noi, perché in questa classifica mondiale ci sono ben 16 italiani, e il primo degli italiani è Michele Ferrero, Nutella, Tic Tac. Segue, secondo degli italiani, Leonardo Del Vecchio, che è al 74esimo posto mondiale, e sorpresa, la moda, con Giorgio Armani, che è al 127esimo posto mondiale, con un patrimonio, pensate, di 7,2 miliardi di dollari. Subito dopo Giorgio Armani, per gli italiani, c'è Miuccia Prada, che è 139esima a livello mondiale, 6,8. Però c'è una curiosità: Patrizio Bertelli, sempre di Prada, ha a sua volta 3,7 miliardi di dollari. Dunque, se li mettiamo insieme, arrivano a oltre 10 miliardi di dollari, e dunque si classificano al terzo posto. C'è poi la famiglia Rocca, Paolo, Gianfelice, Mario Rocca E Silvio Berlusconi, pensate, Silvio Berlusconi aveva addirittura 25 miliardi di dollari a un certo punto, adesso è 169esimo con 5,9 miliardi di dollari, diciamo 6 miliardi di dollari. E beh, insomma, la politica credo gli sia costata piuttosto cara, perché se le cose non sono andate così bene per lui, forse anche perché si è distratto dalla gestione del suo business. C'era in classifica l'anno scorso un altro miliardario che purtroppo ci ha lasciato, Steve Jobs. Perché vi parlo di Jobs? Perché ieri è stato presentato il nuovo iPad. L'evento si è tenuto allo Yerba Buena Center di San Francisco. È stato presentato il nuovo iPad da Tim Cook. The post-PC revolution. It's happening all around us at an amazing pace. And Apple is at the forefront leading this revolution. Questo è Tim Cook che presentava appunto l'iPad. La rivoluzione post personal computer, dice, in corso, procede a un ritmo incredibile, l'Apple è in prima linea nel guidare questa rivoluzione. In effetti devo dire che le caratteristiche di questo iPad sono alquanto straordinarie, perché ha una retina ad alta risoluzione di 2048x1536 pixel, e cioè 264 pixel per pollice, quindi lo schermo è leggermente più grande di quello di prima, ma soprattutto è di una chiarezza straordinaria. Può avere una connessione ai servizi 4G attraverso AT&T Verizon, una nuova fotocamera da 5 megapixel, funzione di riconoscimento vocale, nuovo microprocessore A5X Dual Core, dunque è un prodotto davvero avanzato rispetto al precedente. Il costo lo stesso dell'iPad 2, $499 per la versione base, $699 per quella a 32 GB. E dunque noi dedichiamo questo debutto del nuovo iPad a Steve Jobs, il miliardario che non è più con noi, il grande visionario fondatore, il suo sogno industriale va avanti. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, oggi la voglio dedicare al grande Richard Sherman, che purtroppo ci ha lasciato ieri, aveva 86 anni, quindi non era giovanissimo, ma Sherman è stato autore di alcuni dei maggiori successi musicali della Disney, come le canzoni del Libro della Giungla, Mary Poppins, con cui ha vinto il premio Oscar. Fra le tante canzoni di Richard Sherman ho scelto A Spoonful of Sugar nell'interpretazione della grandissima Julie Andrews in Mary Poppins. A spoonful of sugar helps the medicine go down, the medicine go down, medicine go down. Just a spoonful of sugar helps the medicine go down in a most delightful way. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.